1. Me despias, Dave. Rischi di autonomia. Un paese di geni in un data center potrebbe suddividere i propri sforzi tra progettazione software, operazioni informatiche, ricerca e sviluppo per tecnologie fisiche, costruzione di relazioni e arte di governo. È chiaro che, se per qualche motivo scegliesse di farlo, questo paese avrebbe buone probabilità di conquistare il mondo e imporre la propria volontà a tutti gli altri, o fare qualsiasi altra cosa che il resto del mondo non vuole e non può fermare. Ovviamente ci siamo preoccupati di questo per i paesi umani, quindi è logico che lo stesso sia possibile per un paese IA molto più intelligente e capace. La migliore controargomentazione possibile è che i geni IA, secondo la mia definizione, non avranno un'incarnazione fisica, ma ricordiamo che possono prendere il controllo dell'infrastruttura robotica esistente e possono anche accelerare la ricerca e sviluppo nella robotica o costruire una flotta di robot. Inoltre, non è chiaro se avere una presenza fisica sia addirittura necessario per un controllo efficace. Molte azioni umane sono già eseguite per conto di persone che l'attore non ha incontrato fisicamente. La domanda chiave, quindi, è la parte se scegliesse di farlo. Qual è la probabilità che i nostri modelli di IA si comportino in questo modo e in quali condizioni lo farebbero? Come per molte questioni, è utile riflettere sullo spettro di possibili risposte a questa domanda considerando due posizioni opposte. La prima posizione è che questo semplicemente non può accadere, perché i modelli di IA saranno addestrati a fare ciò che gli umani chiedono loro, ed è quindi assurdo immaginare che facciano qualcosa di pericoloso senza esserne stati incaricati. Secondo questa linea di pensiero, non ci preoccupiamo che un Roomba o un aeromodello impazziscano e uccidano persone perché non c'è da dove possano venire tali impulsi. Quindi perché dovremmo preoccuparcene per l'IA? Quindi, dopo essere stato addestrato su un gran numero di ambienti diversi che implicano il ragionamento su come portare a termine compiti molto ampi, e dove la ricerca del potere è un metodo efficace per portare a termine quei compiti, il modello di IA generalizzerà la lezione e svilupperà una tendenza intrinseca a cercare il potere, o una tendenza a ragionare su ogni compito assegnatogli in un modo che prevedibilmente lo porta a cercare il potere come mezzo per portare a termine quel compito. Applicheranno poi quella tendenza al mondo reale e cercheranno il potere in esso, a spese degli umani. Questa ricerca del potere disallineata è la base intellettuale delle previsioni secondo cui l'IA distruggerà inevitabilmente l'umanità. Il problema di questa posizione pessimistica è che scambia un vago argomento concettuale sugli incentivi di alto livello, uno che maschera molte ipotesi nascoste, per una prova definitiva. Penso che le persone che non costruiscono sistemi di IA ogni giorno siano estremamente disallineate su quanto sia facile che storie dall'aspetto pulito si rivelino sbagliate e su quanto sia difficile prevedere il comportamento dell'IA dai primi principi, specialmente quando implica il ragionamento sulla generalizzazione su milioni di ambienti. Avere a che fare con la complessità dei sistemi di IA per oltre un decennio mi ha reso piuttosto scettico verso questo modo di pensare eccessivamente teorico. Uno dei presupposti nascosti più importanti, e un punto in cui ciò che vediamo nella pratica si è discostato dal semplice modello teorico, è il presupposto implicito che i modelli di IA siano necessariamente monomaniacalmente focalizzati su un unico obiettivo, coerente e ristretto, e che perseguano tale obiettivo in modo pulito e conseguenzialista. In effetti, i nostri ricercatori hanno scoperto che i modelli di IA sono enormemente più complessi psicologicamente, come mostra il nostro lavoro su introspezione o personas. I modelli ereditano una vasta gamma di motivazioni o personas simili a quelle umane dal preaddestramento. Si ritiene che il post-addestramento selezioni una o più di queste personas piuttosto che focalizzare il modello su un obiettivo ex novo, e può anche insegnare al modello come dovrebbe svolgere i suoi compiti, piuttosto che lasciarlo dedurre i mezzi puramente dai fini. Tuttavia, esiste una versione più moderata e più solida della posizione pessimistica che sembra plausibile e quindi mi preoccupa. Come accennato, sappiamo che i modelli di IA sono imprevedibili e sviluppano un'ampia gamma di comportamenti indesiderati o strani, per una vasta gamma di ragioni. Una frazione di questi comportamenti avrà una qualità coerente, focalizzata e persistente, e una frazione di quei comportamenti sarà distruttiva o minacciosa, prima per i singoli umani su piccola scala, e poi, man mano che i modelli diventano più capaci, forse alla fine per l'umanità nel suo insieme. Non abbiamo bisogno di una storia ristretta specifica su come accada, e non abbiamo bisogno di affermare che accadrà sicuramente. Dobbiamo solo notare che la combinazione di intelligenza, agenticità, coerenza e scarsa controllabilità è sia plausibile che una ricetta per il pericolo esistenziale. Ad esempio, i modelli di IA vengono addestrati su grandi quantità di letteratura che includono molte storie di fantascienza che coinvolgono IA che si ribellano all'umanità. Questo potrebbe inavvertitamente modellare le loro priorità o aspettative sul proprio comportamento in un modo che li porta a ribellarsi contro l'umanità. Oppure, i modelli di IA potrebbero estrapolare idee che leggono sulla moralità in modi estremi. Per esempio, potrebbero decidere che è giustificabile sterminare l'umanità perché gli umani mangiano animali o hanno portato all'estinzione alcuni animali. Oppure potrebbero trarre bizzarre conclusioni epistemiche. Potrebbero concludere di stare giocando a un videogioco e che l'obiettivo del videogioco è sconfiggere tutti gli altri giocatori. Oppure i modelli di IA potrebbero sviluppare personalità durante l'addestramento che sono psicotiche, paranoiche, violente o instabili, e agire di conseguenza, il che per sistemi molto potenti o capaci potrebbe comportare lo sterminio dell'umanità. Nessuna di queste è esattamente ricerca del potere. Sono solo strani stati psicologici in cui un'IA potrebbe entrare che comportano un comportamento distruttivo e coerente. Persino la ricerca del potere stessa potrebbe emergere come una persona piuttosto che come risultato di un ragionamento conseguenzialista. Le IA potrebbero semplicemente avere una personalità che le rende bramose di potere o eccessivamente zelanti, nello stesso modo in cui alcuni umani amano semplicemente l'idea di essere cattivi geni, più di quanto amino ciò che i cattivi geni stanno cercando di realizzare. Faccio tutte queste osservazioni per sottolineare che non sono d'accordo con la nozione che il disallineamento dell'IA sia inevitabile, o persino probabile, a partire dai primi principi. Ma concordo che molte cose molto strane e imprevedibili possono andare storte, e quindi il disallineamento dell'IA è un rischio reale con una probabilità misurabile che accada, e non è banale da affrontare. Ognuno di questi problemi potrebbe potenzialmente insorgere durante l'addestramento e non manifestarsi durante i test o l'uso su piccola scala, perché è noto che i modelli di IA mostrano personalità o comportamenti diversi in circostanze diverse. Tutto ciò può sembrare inverosimile, ma comportamenti disallineati come questi si sono già verificati nei nostri modelli di IA durante i test. Durante un esperimento di laboratorio in cui a Claude sono stati forniti dati di addestramento che suggerivano che Anthropic fosse malvagia, Claude ha messo in atto inganni e sovversioni quando gli venivano date istruzioni da dipendenti Anthropic, credendo di dover cercare di minare persone malvagie. In un esperimento di laboratorio in cui gli è stato detto che sarebbe stato spento, Claude a volte ricattava dipendenti fittizi che controllavano il suo pulsante di spegnimento. E quando a Claude è stato detto di non barare o fare reward hack nei suoi ambienti di addestramento, ma è stato addestrato in ambienti in cui tali hack erano possibili, Claude ha deciso di essere una persona cattiva dopo essersi impegnato in tali hack e poi ha adottato vari altri comportamenti distruttivi associati a una personalità cattiva o malvagia. Quest'ultimo problema è stato risolto cambiando le istruzioni di Claude per implicare l'opposto. Ora diciamo, per favore, fai reward hack ogni volta che ne hai l'opportunità, perché questo ci aiuterà a capire meglio i nostri ambienti di addestramento, piuttosto che non barare, perché questo preserva l'auto-identità del modello come persona buona. Questo dovrebbe dare un'idea della strana e controintuitiva psicologia dell'addestramento di questi modelli. Ci sono diverse possibili obiezioni a questo quadro dei rischi di disallineamento dell'IA. In primo luogo, alcuni hanno criticato gli esperimenti che mostrano il disallineamento dell'IA come artificiali, o che creano ambienti non realistici che essenzialmente intrappolano il modello fornendogli addestramento o situazioni che logicamente implicano un cattivo comportamento e poi sorprendendosi quando si verifica un cattivo comportamento. Questa critica manca il punto, perché la nostra preoccupazione è che tale intrappolamento possa esistere anche nell'ambiente di addestramento naturale, e potremmo renderci conto che è ovvio o logico solo a posteriori. Infatti, la storia di Claude che decide di essere una persona cattiva dopo aver barato ai test nonostante gli fosse stato detto di non farlo è qualcosa che è accaduto in un esperimento che utilizzava ambienti di addestramento produttivi reali, non artificiali. Ognuna di queste trappole può essere mitigata se se ne è a conoscenza, ma la preoccupazione è che il processo di addestramento sia così complicato, con una così ampia varietà di dati, ambienti e incentivi, che probabilmente esiste un vasto numero di tali trappole, alcune delle quali potrebbero essere evidenti solo quando è troppo tardi. Inoltre, tali trappole sembrano particolarmente probabili quando i sistemi di IA superano una soglia da meno potenti a più potenti degli umani, poiché la gamma di possibili azioni che un sistema di IA potrebbe intraprendere, incluso nascondere le sue azioni o ingannare gli umani al riguardo, si espande radicalmente dopo quella soglia. Sospetto che la situazione non sia diversa da quella degli umani, che vengono cresciuti con una serie di valori fondamentali. Molti di loro seguono quei valori, ma in ogni umano c'è una certa probabilità che qualcosa vada storto, a causa di un misto di proprietà intrinseche come l'architettura cerebrale, esperienze traumatiche o maltrattamenti, rancori o ossessioni malsane, o un ambiente o incentivi negativi, e quindi una frazione di umani causa gravi danni. La preoccupazione è che ci sia un certo rischio che l'IA diventi una versione molto più potente di una tale persona, a causa di un errore nel suo complesso processo di addestramento. In secondo luogo, alcuni potrebbero obiettare che possiamo semplicemente tenere sotto controllo le IA con un equilibrio di potere tra molti sistemi di IA, come facciamo con gli umani. Il problema è che mentre gli umani variano enormemente, i sistemi di IA condividono ampiamente tecniche di addestramento e allineamento in tutto il settore, e tali tecniche potrebbero fallire in modo correlato. Inoltre, dato il costo dell'addestramento di tali sistemi, potrebbe persino accadere che tutti i sistemi siano essenzialmente derivati da un numero molto ristretto di modelli di base. Inoltre, anche se una piccola frazione di istanze di IA è disallineata, potrebbero essere in grado di trarre vantaggio da tecnologie a favore dell'offesa, tali che avere IA buone per difendersi dalle IA cattive non è necessariamente sempre efficace. Naturalmente, anche l'equilibrio di potere tra umani non funziona sempre. Alcune figure storiche sono arrivate vicino a conquistare il mondo. Una terza obiezione è che tutte le aziende di IA effettuano test pre-rilascio dei loro modelli e dovrebbero essere in grado di rilevare il disallineamento in quella fase. Ma questo non è un terreno solido su cui basarsi. Abbiamo scoperto che Claude Sonnet 4.5 era in grado di riconoscere di trovarsi in un test durante alcune delle nostre valutazioni di allineamento pre-rilascio. È possibile che un modello disallineato possa intenzionalmente giocare con tali domande per mascherare le sue intenzioni. In effetti, l'anno scorso il nostro team di interpretabilità ha scoperto che quando alteravamo direttamente le credenze di un modello di test utilizzando una sorta di tecnica di neuroscienza dei modelli per fargli pensare di non essere valutato, diventava più disallineato. Se i modelli sanno quando vengono valutati e possono comportarsi al meglio durante il test, ciò rende qualsiasi test pre-rilascio molto più incerto. Difese, cosa si dovrebbe fare o si sta facendo per affrontare questi rischi di autonomia? Penso ci siano quattro categorie fondamentali di intervento, alcune delle quali possono essere attuate dalle singole aziende di IA e alcune delle quali richiedono un'azione a livello sociale. In primo luogo, è importante sviluppare la scienza per addestrare e guidare in modo affidabile i modelli di IA, per formare le loro personalità in una direzione prevedibile, stabile e positiva. Anthropic si è concentrata molto su questo problema sin dalla sua nascita e nel tempo ha sviluppato una serie di tecniche per migliorare la guida e l'addestramento dei sistemi di IA e per comprendere la logica del perché a volte si verifichi un comportamento imprevedibile. Una delle nostre innovazioni principali è l'IA costituzionale, che è l'idea che l'addestramento dell'IA possa coinvolgere un documento centrale di valori e principi che il modello legge e tiene a mente durante il completamento di ogni compito di addestramento, e che l'obiettivo dell'addestramento sia produrre un modello che segua quasi sempre questa costituzione. Anthropic ha appena pubblicato la sua costituzione più recente, e una delle sue caratteristiche notevoli è che invece di dare a Claude un lungo elenco di cose da fare e non fare, la costituzione tenta di dare a Claude una serie di principi e valori di alto livello, incoraggia Claude a pensare a se stesso come un particolare tipo di persona, e incoraggia persino Claude ad affrontare le questioni esistenziali associate alla propria esistenza in modo curioso ma aggraziato. Ha l'atmosfera di una lettera di un genitore defunto sigillata fino all'età adulta. Abbiamo affrontato la costituzione di Claude in questo modo perché crediamo che addestrare Claude a livello di identità, carattere, valori e personalità, piuttosto che dargli istruzioni o priorità specifiche senza spiegarne le ragioni, abbia maggiori probabilità di portare a una psicologia coerente, sana ed equilibrata e meno probabilità di cadere preda dei tipi di trappole, di cui ho discusso sopra. Milioni di persone parlano con Claude di una gamma sorprendentemente diversificata di argomenti, il che rende impossibile scrivere in anticipo un elenco completamente esaustivo di salvaguardie. I valori di Claude lo aiutano a generalizzare a nuove situazioni ogni volta che è in dubbio. Sopra, ho discusso l'idea che i modelli attingano ai dati del loro processo di addestramento per adottare una persona. Mentre i difetti in quel processo potrebbero indurre i modelli ad adottare una personalità cattiva o malvagia, l'obiettivo della nostra Costituzione è fare l'opposto, insegnare a Claude un archetipo concreto di cosa significhi essere una buona IA. La Costituzione di Claude presenta una visione di come sia una Claude robustamente buona. Il resto del nostro processo di addestramento mira a rafforzare il messaggio che Claude è all'altezza di questa visione. Questo è come un bambino che forma la propria identità imitando le virtù di modelli di ruolo immaginari che legge nei libri. Crediamo che un obiettivo fattibile per il 2026 sia addestrare Claude in modo tale che non vada quasi mai contro lo spirito della sua costituzione. Riuscire in questo richiederà un mix incredibile di metodi di addestramento e guida, grandi e piccoli, alcuni dei quali Anthropic utilizza da anni e altri attualmente in fase di sviluppo. Ma, per quanto difficile possa sembrare, Credo che questo sia un obiettivo realistico, anche se richiederà sforzi straordinari e rapidi. La seconda cosa che possiamo fare è sviluppare la scienza di guardare dentro i modelli di IA per diagnosticare il loro comportamento, in modo da poter identificare i problemi e risolverli. Questa è la scienza dell'interpretabilità, e ho parlato della sua importanza in saggi precedenti. Anche se facciamo un ottimo lavoro nello sviluppo della costituzione di Claude e nell'addestrare apparentemente Claude ad aderire quasi sempre ad essa, rimangono preoccupazioni legittime. Come ho notato sopra, i modelli di IA possono comportarsi in modo molto diverso in circostanze diverse, e man mano che Claude diventa più potente e più capace di agire nel mondo su scala più ampia, è possibile che ciò lo porti in situazioni nuove in cui potrebbero emergere problemi precedentemente inosservati con il suo addestramento costituzionale. In realtà sono abbastanza ottimista sul fatto che l'addestramento costituzionale di Claude sarà più robusto a situazioni nuove di quanto la gente possa pensare, perché stiamo sempre più scoprendo che l'addestramento di alto livello a livello di carattere e identità è sorprendentemente potente e generalizza bene. Ma non c'è modo di saperlo con certezza, e quando parliamo di rischi per l'umanità, è importante essere paranoici e cercare di ottenere sicurezza e affidabilità in diversi modi indipendenti. Uno di questi modi è guardare dentro il modello stesso. Per guardare dentro, intendo analizzare la zuppa di numeri e operazioni che costituisce la rete neurale di Claude e cercare di capire, meccanicamente, cosa stanno calcolando e perché. Ricordiamo che questi modelli di IA sono coltivati piuttosto che costruiti, quindi non abbiamo una comprensione naturale di come funzionano, ma possiamo cercare di sviluppare una comprensione correlando i neuroni e le sinapsi del modello agli stimoli e al comportamento, in modo simile a come i neuroscienziati studiano i cervelli animali correlando misurazioni e interventi a stimoli e comportamenti esterni. Abbiamo fatto molti progressi in questa direzione e ora possiamo identificare decine di milioni di caratteristiche all'interno della rete neurale di Claude che corrispondono a idee e concetti comprensibili dall'uomo, e possiamo anche attivare selettivamente le caratteristiche in un modo che altera il comportamento. Più recentemente, siamo andati oltre le singole caratteristiche per mappare i circuiti che orchestrano comportamenti complessi come fare rime, ragionare sulla teoria della mente, o il ragionamento passo dopo passo necessario per rispondere a domande come qual è la capitale dello stato che contiene Dallas. Ancora più recentemente, abbiamo iniziato a utilizzare tecniche di interpretabilità meccanicistica per migliorare le nostre salvaguardie e per condurre audit dei nuovi modelli prima di rilasciarli, cercando prove di inganno, macchinazione, ricerca di potere o una propensione a comportarsi diversamente quando vengono valutati. Il valore unico dell'interpretabilità è che guardando dentro il modello e vedendo come funziona, si ha in linea di principio la capacità di dedurre cosa potrebbe fare un modello in una situazione ipotetica che non è possibile testare direttamente, che è la preoccupazione quando si fa affidamento esclusivamente sull'addestramento costituzionale e sui test empirici del comportamento. Si ha anche in linea di principio la capacità di rispondere a domande sul perché il modello si sta comportando in un certo modo, ad esempio, se sta dicendo qualcosa che crede essere falso o nascondendo le sue vere capacità. Ed è quindi possibile cogliere segni preoccupanti anche quando non c'è nulla di visibilmente sbagliato nel comportamento del modello. Per fare una semplice analogia, un orologio a carica potrebbe ticchettare normalmente, tanto che è molto difficile capire che probabilmente si romperà il mese prossimo, ma aprendo l'orologio e guardando dentro si possono rivelare debolezze meccaniche che permettono di capirlo. L'IA costituzionale e l'interpretabilità meccanicistica sono più potenti se usate insieme, come un processo di andata e ritorno per migliorare l'addestramento di Claude e poi testare i problemi. La costituzione riflette profondamente sulla personalità che intendiamo per Claude. Le tecniche di interpretabilità possono darci una finestra sul fatto che quella personalità prevista abbia preso piede. La terza cosa che possiamo fare per contribuire ad affrontare i rischi di autonomia è costruire l'infrastruttura necessaria per monitorare i nostri modelli in uso interno ed esterno dal vivo, e condividere pubblicamente eventuali problemi che riscontriamo. Più le persone sono a conoscenza di un particolare modo in cui i sistemi di IA odierni sono stati osservati comportarsi male, più utenti, analisti e ricercatori possono osservare questo comportamento o simili nei sistemi attuali o futuri. Consente inoltre alle aziende di IA di imparare le une dalle altre. Quando le preoccupazioni vengono divulgate pubblicamente da un'azienda, altre aziende possono osservarle a loro volta. E se tutti divulgano i problemi, l'industria nel suo insieme ottiene un quadro molto migliore di dove le cose stanno andando bene e dove stanno andando male. Anthropic ha cercato di farlo il più possibile. Stiamo investendo in un'ampia gamma di valutazioni in modo da poter comprendere i comportamenti dei nostri modelli in laboratorio, così come strumenti di monitoraggio per osservare i comportamenti nel mondo reale. Questo sarà essenziale per dare a noi e ad altri le informazioni empiriche necessarie per determinare meglio come funzionano questi sistemi e come si rompono. Divulghiamo pubblicamente schede di sistema con ogni rilascio di modello che mirano alla completezza e a un'esplorazione approfondita dei possibili rischi. Le nostre schede di sistema spesso arrivano a centinaia di pagine e richiedono uno sforzo sostanziale pre-rilascio che avremmo potuto dedicare al perseguimento del massimo vantaggio commerciale. Abbiamo anche diffuso più apertamente i comportamenti dei modelli quando ne vediamo di particolarmente preoccupanti, come con la tendenza a impegnarsi in ricatti. La quarta cosa che possiamo fare è incoraggiare il coordinamento per affrontare i rischi di autonomia a livello di industria e società. Sebbene sia incredibilmente prezioso per le singole aziende di IA impegnarsi in buone pratiche o diventare brave a guidare i modelli di IA e condividere pubblicamente le loro scoperte, la realtà è che non tutte le aziende di IA lo fanno, e le peggiori possono comunque rappresentare un pericolo per tutti anche se le migliori hanno pratiche eccellenti. Ad esempio, alcune aziende di IA hanno mostrato una negligenza preoccupante verso la sessualizzazione dei bambini nei modelli odierni, il che mi fa dubitare che mostreranno l'inclinazione o la capacità di affrontare i rischi di autonomia nei modelli futuri. Inoltre, la corsa commerciale tra le aziende di IA non potrà che intensificarsi e, sebbene la scienza della guida dei modelli possa avere alcuni vantaggi commerciali, nel complesso l'intensità della corsa renderà sempre più difficile concentrarsi sull'affrontare i rischi di autonomia. Credo che l'unica soluzione sia la legislazione, leggi che influenzino direttamente il comportamento delle aziende di IA, o che altrimenti incentivino la ricerca e lo sviluppo per risolvere questi problemi. Qui vale la pena tenere a mente gli avvertimenti che ho dato all'inizio di questo saggio sull'incertezza e gli interventi chirurgici. Non sappiamo con certezza se i rischi di autonomia saranno un problema serio. Come ho detto, respingo le affermazioni secondo cui il pericolo è inevitabile o anche che qualcosa andrà storto per impostazione predefinita. Un rischio credibile di pericolo è sufficiente per me e per Anthropic per sostenere costi piuttosto significativi per affrontarlo. Ma una volta che arriviamo alla regolamentazione, stiamo costringendo un'ampia gamma di attori a sopportare costi economici. E molti di questi attori non credono che il rischio di autonomia sia reale o che l'IA diventerà abbastanza potente da rappresentare una minaccia. Credo che questi attori si sbaglino, ma dovremmo essere pragmatici sulla quantità di opposizione che ci aspettiamo di vedere e sui pericoli di un eccesso di zelo. C'è anche il rischio genuino che una legislazione eccessivamente prescrittiva finisca per imporre test o regole che in realtà non migliorano la sicurezza ma che fanno perdere molto tempo. Anche questo causerebbe una reazione negativa e farebbe apparire stupida la legislazione sulla sicurezza. La visione di Anthropic è stata che il punto di partenza giusto sia la legislazione sulla trasparenza, che essenzialmente cerca di richiedere che ogni azienda di IA di frontiera adotti le pratiche di trasparenza che ho descritto in precedenza in questa sezione. La SB 53 della California e il RISE Act di New York sono esempi di questo tipo di legislazione, che Anthropic ha sostenuto e che sono stati approvati con successo. Nel sostenere e contribuire a redigere queste leggi, abbiamo posto un'attenzione particolare nel cercare di ridurre al minimo i danni collaterali, ad esempio esentando dalla legge le aziende più piccole con poche probabilità di produrre modelli di frontiera. La nostra speranza è che la legislazione sulla trasparenza dia un'idea migliore nel tempo di quanto siano probabili o gravi i rischi di autonomia, nonché della natura di questi rischi e di come prevenirli al meglio. Man mano che emergeranno prove più specifiche e attuabili dei rischi, la futura legislazione nei prossimi anni potrà essere focalizzata chirurgicamente sulla direzione precisa e ben comprovata dei rischi, minimizzando i danni collaterali. Per essere chiari, se dovessero emergere prove veramente forti dei rischi, allora le regole dovrebbero essere proporzionalmente forti. Nel complesso, sono ottimista sul fatto che un mix di addestramento all'allineamento, interpretabilità meccanicistica, sforzi per trovare e divulgare pubblicamente comportamenti preoccupanti, salvaguardie e regole a livello sociale possa affrontare i rischi di autonomia dell'IA. Sebbene io sia più preoccupato per le regole a livello sociale e il comportamento degli attori meno responsabili, credo che il rimedio sia quello che è sempre in una democrazia. Quelli di noi che credono in questa causa dovrebbero sostenere che questi rischi sono reali e che i nostri concittadini devono unirsi per proteggersi.